Speciale primo maggio. Come crisi e globalizzazione hanno cambiato il mondo del lavoro. Di Vincenzo Miglietta. Un saluto da Vincenzo Miglietta e un benvenuto ai nostri ascoltatori per questo speciale primo maggio. Cercheremo di approfondire in questo spazio le principali tematiche che riguardano il mondo del lavoro. Chi un posto ce l'ha, chi lo cerca, chi purtroppo l'ha perso e poi le problematiche delle singole fasce d'età, i giovani, gli ultracinquantenni, coloro che sono ad un passo dalla pensione, il capitolo delle crisi aziendali, da ultimo il caso Alitalia, il fronte contratti quindi, gli sforzi dei vari governi di conciliare la tutela dei diritti e la maggiore flessibilità chiesta dalla globalizzazione al mondo produttivo. Sentiremo la posizione di imprese e sindacati e delle forze politiche, come immaginano il mondo del lavoro nel medio e lungo termine, ed ancora l'alternanza scuola-lavoro, la diversità di genere nelle retribuzioni. Un viaggio questo che faremo grazie al contributo in regia di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, al prezioso contributo delle colleghe Elisabetta Fiorito, Alessandra Schepisi e Teresa Trillò. Partiamo allora con il nostro speciale. Prima parte del nostro speciale che facciamo in compagnia del collega del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti, che saluto. Ciao Giorgio. Buongiorno. Allora Giorgio, prendiamola da lontano, ti chiedo subito qual è secondo te lo stato di salute del mercato del lavoro nel nostro paese. Giorgio. Ma possiamo dire che non siamo più nella fase più acuta della crisi, che ci siamo messi alle spalle, però appunto ancora siamo lontani, ancora diciamo dai livelli pre-crisi, e soprattutto ci sono dei settori che ancora faticano parecchio. Mi riferisco soprattutto al settore industriale, al settore delle costruzioni, mentre altri settori come quello dei servizi, come dire, ha reagito meglio, il servizi terziario. Per dare un dato, noi nel pre-crisi noi eravamo al 58,8, certo. Nel picco della crisi noi eravamo al 55,4. Come potete capire, diciamo, il peggio ce lo siamo messo alle spalle, però non possiamo dire di essere usciti fuori dalla crisi, siamo ancora lontani. Peraltro va segnalato un fatto: c'è un problema strutturale, potremmo oramai definire una debolezza strutturale del nostro mercato del lavoro. In Italia lavorano in pochi, cioè il nostro bacino occupazionale è di 10 punti inferiore rispetto alla media europea. Certo. Cioè noi dovremmo avere 66%, diciamo, per stare allinearci alla media europea. Non dico alle migliori nazioni tipo il Canada, eccetera, dove è il 70, o nei paesi nord europei, ma per stare nella media, diciamo, dovremmo avere circa 10 punti in più di occupati. E in realtà, se andiamo a vedere, c'è un problema di genere. Cioè noi abbiamo, mentre per la media di occupati tra gli uomini è allineata alla media europea, al 66,7, per le donne noi siamo al 48,4. Quindi qui c'è un problema molto serio che riguarda l'esclusione delle donne dal mercato del lavoro, che impatta, diciamo, sull'organizzazione poi sia del ciclo produttivo, ma certo, anche sull'assenza di servizi, di politiche che possano in qualche maniera favorire appunto. Quindi fintanto che non, diciamo, risolveremo questo problema, sarà molto difficile che l'Italia possa allinearsi a quelle che sono le medie europee. Quindi, allora, per fare il punto su quello che tu hai detto fino a questo momento, in Italia lavoriamo di meno in termini quantitativi rispetto, siamo pochi, numerici, esatto, siamo pochi rispetto alla media europea. La base occupazionale ancora è troppo limitata, dovremmo avere più persone che lavorano. Questo è il problema. Siamo ancora e nell'ambito delle persone che lavorano, le donne sono troppo poche, immagino poi, Giorgio, che siano ancora di meno i giovani. Ecco, siamo la nostra platea di occupati, quindi è inferiore alla media europea, perché abbiamo dei punti di debolezza. Il primo è quello delle donne, il secondo è quello dei giovani. Noi abbiamo una disoccupazione giovanile al 35,2%, in calo, va bene? Però sono tanti. Ebbene, se andiamo a vedere la media europea, noi abbiamo il doppio della disoccupazione giovanile dell'Europa a 28, quasi il doppio della zona euro. Quindi questo è un grosso problema. Addirittura un altro aspetto interessante è che se andiamo a vedere i dati Istat, in realtà gli aumenti occupazionali hanno interessato in prevalenza la fascia da 50 anni in su. Per quale motivo? Per tre ordini di motivi. Il primo è la riforma pensionistica, certo, che ha allungato l'età pensionabile. Il secondo, c'è anche una componente anagrafica, cioè c'è un invecchiamento, diciamo, della popolazione, quindi c'è più, cresce, no, questa fascia qua. Ma il terzo, e questo, diciamo, dovrebbe farci riflettere, è che e questa fascia di età è quella che meglio si è reinserita nel mondo del lavoro, cioè magari espulsi anche dai cicli produttivi, però in virtù della loro esperienza sono riusciti poi a rioccuparsi più dei giovani. E questo capiamo che c'è un problema che non tanto per questa fascia d'età, anzi, che è positivo, che è diciamo, positivo, certo. Perché denota il valore dell'esperienza e tutto, ma denota una incapacità competitiva della fascia giovanile. E questo chiama in causa una serie di problemi, no? Il primo problema è il fatto che la mancanza di dialogo tra il mondo della scuola e il mondo produttivo. Quindi è evidente che se noi abbiamo o tutti laureati in materie appunto che hanno poco, o come dire, anche le stesse università sul territorio non rispondono anche a quelle che sono le domande che vengono, no, dal contesto produttivo. Quindi lì la scommessa un po' è questa dell'alternanza scuola-lavoro, di questo poi ne parleremo tra breve, che potrebbe in qualche maniera, certo, favorire questo dialogo. Abbiamo pochi laureati, e questo è un altro elemento che dovrebbe, rispetto, siamo alle ultime posizioni, la penultima posizione. È vero, dato di questi giorni. Esatto, sì, sì. E questo dovrebbe spaventarci, perché questo significa anche la competizione sulla qualità. Tu non la fai nel momento in cui hai pochi laureati. Peraltro bisognerebbe anche andare a vedere, perché sulle materie scientifiche noi siamo messi molto male, peraltro. Ecco, quindi tutto ciò crea, come dire, una svantaggio competitivo molto penalizzante per i giovani, e fa sì che noi occupiamo una delle ultime posizioni in Europa appunto per la disoccupazione giovanile. Ecco, il tema dei contratti, della tipologia del contratto, quanto può aiutare oppure scoraggiare le varie fasce d'età nel trovare lavoro? Ovvero, gli ultra cinquantenni sono stati beneficiati da qualche tipologia particolare di contratto nel ritrovare il lavoro? I giovani non trovano lavoro perché non c'è un contratto allettante da parte del mondo produttivo? Non è tanto un problema di tipologie contrattuali, il problema è proprio un fatto di non essere, come dire, la mancanza di esperienze che viene chiesta spesso dalle imprese, i giovani che si affacciano al mondo del lavoro purtroppo, quindi i pochi che si laureano pure tardi, oppure che escono dalle scuole, escono tardi e per giunta senza la formazione on the job. Uno dei successi appunto dell'esperienza poi tedesca è stato proprio quello degli istituti tecnici professionali, che hanno sfornato fior fior di manager che appunto prevedevano la formazione sul campo, sul lavoro, e questo, diciamo, è quel modello di formazione duale a cui si ispira poi il nostro sistema dell'alternanza. Però ecco, per tornare ai contratti, sì, un dato interessante, per esempio la scommessa, diciamo, del governo Renzi, poi è proseguita in maniera diversa dal governo Gentiloni, è quella con il Jobs Act, che è stato rivisto il contratto a tempo indeterminato. Di contribuzione, contratti a tempo indeterminato. Quindi più facile, da un lato è più facile licenziare, no? Però dall'altro appunto sei anche incentivato con la decontribuzione. Primo anno 2015 decontribuzione totale. E c'è stato un grosso impulso, ha portato un grosso impulso all'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato. Secondo anno decontribuzione sempre generalizzata, però importo più ridotto, ridotta, certo. E ha rallentato. Terzo anno decontribuzione non più generalizzata, cioè quest'anno, ma mirata solo ai giovani, al sud, più limitata, e si vede, se andiamo a vedere l'andamento, si vede che c'è stata una riduzione, ha perso appetibilità. Per quale motivo? Perché anzitutto c'è un problema congiunturale. La decontribuzione può aiutare l'incentivo economico, ma il principale incentivo per l'impresa per assumere è la crescita, indubbiamente. È la domanda. Se ci sono degli ordini in azienda, comunque, certo, quelli contribuiscono poi ad allargare la forza lavoro. Se tu hai delle prospettive a breve, ti utilizzerai dei contratti a breve. Ma poi, anche se andiamo a vedere le fasce d'età che sono state assunte con i contratti a tempo indeterminato usufruendo della decontribuzione, è interessante vedere che in realtà sono le fasce medie, quindi le fasce over 40, per esempio, e che sono stati comunque preferiti con la decontribuzione, che valeva anche per le stabilizzazioni dei contratti, certo, a tempo indeterminato, non solo per le nuove assunzioni, sono stati preferiti gli over 50 rispetto ai giovani. E questo sempre per dire che c'è un problema serio di scarsa competitività per questa fascia d'età, che va affrontato altro seriamente. Certo, e altro tema poi di cui si è dibattuto molto, il 2017 ne ha decretato poi la loro fine, quello dei voucher, amati, odiati, sappiamo com'è andata a finire, grande utilizzo, poi il governo ha fatto un deciso taglio, praticamente dal 17 marzo sono di fatto scomparsi. Cioè si possono utilizzare, quelli acquistati prima dell'entrata in vigore. È vero che vi era stato un abuso, ma adesso il lavoro accessorio, Giorgio, come può essere coperto? Questa è la grossa incognita, nel senso che è vero che dei voucher ne è stato fatto anche un abuso, però è anche vero che resta il tema di che cosa, come diciamo normare, come disciplinare i lavoretti occasionali, no? Per questo erano nati poi con la legge Biagi, erano nati per cercare di disciplinare invece del lavoro di fare lavoro nero, no? Si prevedeva uno strumento duttile che potesse essere, e venne sperimentato infatti per la prima volta nella vendemmia, no? Per uno strumento duttile e facilmente utilizzabile che desse un minimo di copertura previdenziale. Minima, minima, perché parliamo del 13% dell'aliquota, quindi ben lontano dal 25% del lavoro autonomo e ben lontano dal 33% medio del lavoro dipendente. Adesso quindi, per evitare il referendum della CGIL, il governo li ha con un tratto di penna cancellati, però li ha cancellati non solo per chi ne abusava, ma anche per chi li utilizzava correttamente, magari nella ristorazione, magari nel turismo, o soprattutto per le famiglie. Allora, cosa succede? Adesso il governo sta studiando poi come intervenire appunto per disciplinare tutto ciò, quindi c'è da aspettarsi un provvedimento a breve in cui ci sarà sostanzialmente uno strumento nuovo, un buono diciamo da utilizzare per le famiglie, e poi ci dovrà essere anche uno strumento per le imprese, si sta pensando anche di diversificare tra le piccole e grandi. Comunque la cosa fondamentale è che deve essere uno strumento di facile utilizzo, perché se diventa una cosa molto complicata da utilizzare, l'altro aspetto su cui riflettere è che impatto ha tutto ciò sui dati occupazionali, cioè siccome è difficile prevedere che tutto questo lavoro accessorio si trasformi appunto in contratti stabili, certo, è molto probabile che buona parte di questo rifinisca nel sommerso. Noi ancora non lo possiamo vedere dai dati, perché i dati appunto sono fermi a febbraio, i dati Istat IMSS, e quindi lo potremo vedere poi nelle successive. E questa, Giorgio, è una sfida sicuramente per il legislatore, per il governo, stiamo parlando dei voucher, altra sfida, qui poi andiamo a chiudere la nostra parte dedicata a questa panoramica sui grandi temi del lavoro. Siamo in compagnia di Giorgio Pogliotti, collega del Sole 24 Ore. Giorgio, dicevamo dei voucher, l'altra sfida del governo sono le crisi aziendali di questi giorni all'Italia, senza entrare poi più di tanto nello specifico nella vicenda della compagnia aerea, ma cosa ci insegna questa vicenda? Questa è una grossa incognita, perché non solo per l'esecutivo, ma soprattutto per i lavoratori, per i 12.500 lavoratori che ci lavorano, per l'indotto, quindi parliamo almeno di 20.000, e per gli stessi consumatori, per chi aveva comprato i biglietti, per chi aveva procinto, quindi diciamo per tutto il sistema, e per chi, per il turismo anche, cioè comunque parliamo di un impatto forte sull'economia. Dunque, i temi per questo 1° maggio sono veramente tanti, un mondo del lavoro, grazie anche al collega Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, lo abbiamo sentito, sono diversi, un mondo del lavoro con alcuni aspetti di salute e altri più di ombra. Abbiamo parlato di contratti a tempo indeterminato, del problema dei giovani, le differenze di genere, le crisi aziendali, un sommario abbastanza ampio quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Grazie ancora a Giorgio Pogliotti, e noi passiamo ad un altro ospite. E continuiamo allora con il nostro speciale 1° maggio dedicato al mondo del lavoro. E ci accompagna in quest'altro passaggio del nostro speciale il presidente di ADAPT, Emanuele Massagli. E Massagli, stiamo affrontando luci ed ombre del mercato di fatto del lavoro in Italia. Dobbiamo necessariamente far riferimento ai dati ufficiali, quindi facciamo riferimento ai dati Istat, ai dati dell'INPS, solitamente sono concordi nel dire che l'occupazione cresce ma con difficoltà, i giovani rimangono comunque penalizzati, vi sono poi differenze di genere. Secondo lei quali sono comunque gli aspetti positivi e invece quelli che la preoccupano maggiormente al momento del lavoro per il nostro paese? Parto da questi secondi, perché sono quelli di cui poi anche purtroppo aggiungo parla più spesso anche sui giornali, e sono in particolare il problema che permane dei tassi di bassa occupazione giovanile, ma in particolare più che gli indicatori sull'occupazione e disoccupazione, in questo caso il dato negativo riguarda l'inattività, soprattutto della fascia, non solo quella tradizionalmente identificata come giovane, che è 15-24, ma anche allargando alla fascia 15-29. Certo. L'altro aspetto problematico è ancora una volta qui un indicatore di poca partecipazione al mercato del lavoro, la scarsa occupazione femminile e il basso tasso di attività delle donne, con differenze territoriali anche piuttosto marcate, ma questi sono problemi che il nostro mercato del lavoro ha da decenni, non nascono con la crisi, sono determinati da delle ultime riforme in bene o in male, ma sono dei problemi strutturali che oggettivamente ha il nostro mercato del lavoro. Tra gli aspetti positivi c'è la crescita e comunque il miglioramento nel mercato del lavoro di alcune fasce di popolazione, anche giovanile, più qualificate, e quindi la creazione, l'allargamento del numero di lavoratori esperti e molto professionalizzati, e poi abbiamo ormai da qualche anno osserviamo un miglioramento del tasso di occupazione degli over 50. Questo è un dato che può essere un pochino ingannevole, perché in parte è determinato dall'allungamento dell'età pensionabile, però è indubbio che in quest'ultimo periodo di crisi gli over 50 ne abbiano risentito meno dei giovani. Lei è presidente di un'associazione senza fini di lucro, lo ricordiamo, fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere in un'ottica internazionale comparata studi e ricerche proprio nell'ambito delle relazioni industriali e del lavoro. Allora le chiedo questo: in quasi 20 anni oramai, secondo la sua esperienza, le riforme riescono ad incidere sul mercato del lavoro? E qui arrivo proprio alla domanda: si criticano molto le riforme dei vari governi, ma è una riforma che crea occupazione o alla fine invece è il mercato che porta ordinativi e da qui le imprese che assumono? No, è indubbiamente il mercato, questo anche scientificamente abbastanza dimostrato, per cui quando c'è una legislazione che è favorevole in generale all'attività di imprese, quando si prova ad aiutare la crescita delle imprese, di questo ne ha un influsso positivo poi anche il mercato del lavoro. Quello che certamente le riforme possono fare è ostacolare però l'occupazione, perché poi i disincentivi normativi, quando sono pesanti, comportano costi e comunque non possono essere modificati, non possono essere attutiti da nessun incentivo economico. Cioè il disincentivo normativo tende a peggiorare, tende a rallentare molto la fluidità del mercato del lavoro. Immagino che lei si riferisca comunque allo sforzo fatto dal governo Renzi per i contratti a tempo indeterminato. La decontribuzione che vediamo adesso venuta meno mostra comunque una frenata sotto questo aspetto per quanto riguarda i contratti. Sì, in questo senso l'opera dell'ultimo governo ha provato a dare un messaggio positivo di incoraggiamento al mercato del lavoro, in particolare parlando agli imprenditori e dando loro comunicazioni di effettiva riforma e di facilitazione dell'assunzione. In questo devo dire il tentativo è stato positivo. È stata però anche una riforma estremamente condizionata, estremamente legata ai generosi incentivi economici che erano associati al Jobs Act, che erano quelli previsti dalla legge di stabilità del 2015. Questi incentivi economici hanno avuto esiti decisamente soddisfacenti solo nell'anno in cui sono valsi, per cui nell'anno del 2015. E questo ha coperto un po' anche i meriti, e in parte anche i meriti, dell'intervento normativo del Jobs Act. Un altro aspetto molto interessante, lo vediamo questi giorni, le crisi aziendali, parliamo tutti di Alitalia. Le crisi aziendali, dove vi sono migliaia di lavoratori, secondo lei devono essere trattati come i casi a parte o come le piccole imprese, quindi e la domanda è l'offerta che poi regola anche il mercato del lavoro? No, è inevitabile trattarli come casi a parte, perché anche da un punto di vista proprio sociale e politico interessa un numero di lavoratori rilevante, per cui un numero di famiglie rilevanti, un numero di persone che dipendono da quei redditi rilevante, per cui e questo è inevitabile che ci sia un'attenzione maggiore o quantomeno dei tentativi anche numericamente più numerosi di quelli che si farebbero per le piccole imprese. Il punto qua però secondo me è proprio di cultura politica. Serve a poco intestardirsi e perdere anche i soldi sull'aiutare aziende che vanno male, se non addirittura molto male, perché quei soldi serviranno ad attutire la perdita dei posti di lavoro, ma sicuramente non contribuiranno a crearne neanche uno, perché i posti di lavoro vengono creati dalle imprese che vanno bene. Per cui noi, in parallelo ad aiutare le imprese che vanno male, siano esse pubbliche, parapubbliche o private, però in parallelo a questa opera di salvataggio, più a fini sociali che economici, dovremmo molto di più aiutare economicamente e normativamente le imprese che vanno bene, perché sono quelle che creano occupazione. Grazie ancora ad Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, e noi ci fermiamo. Speciale primo maggio, come crisi e globalizzazione hanno cambiato il mondo del lavoro. Di nuovo insieme per lo speciale primo maggio dedicato al mondo del lavoro. In studio Vincenzo Miglietta, ripartiamo dai giovani e dal nodo della disoccupazione che riguarda questa fascia d'età. Parliamo dell'alternanza, allora, scuola-lavoro, una misura prevista da alcuni anni ma diventata ora obbligatoria con la cosiddetta buona scuola, la legge 105 promossa dal governo Renzi. In pratica si tratta dello svolgimento nell'ultimo triennio delle superiori di un periodo lavorativo non retribuito in un'azienda pubblica o privata. Oltre 90.000 le imprese che partecipano, ma restano ancora alcune criticità. Alessandra Schepisi ne ha parlato con Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria con delega al capitale umano. È l'opportunità per i giovani per entrare nel mondo del lavoro ed affacciarsi come primo impiego, come prima opportunità di farsi conoscere all'interno del loro percorso formativo. Infatti in età scolare, quindi dalla terza superiore fino al diploma di maturità, avranno un percorso obbligatorio anche in azienda, quindi viene deputato l'azienda come luogo formativo. Ed è un'importante novità nel nostro quadro formativo, in quanto si percepisce l'azienda come luogo in cui imparare qualcosa. Rappresenta anche un'opportunità, in un certo senso, anche per le imprese. Certo, perché si riesce a conoscere i giovani in età scolare e si riesce anche a percepire la volontà, le proprie specificità e quindi accompagnare i ragazzi in un percorso formativo più coerente rispetto alle proprie aspettative. E quindi le imprese hanno anche una platea di giovani da poter vedere e aiutare ad entrare nel mondo del lavoro che prima non aveva. Ci sono delle criticità, alcuni diciamo ostacoli, qualcosa che potrebbe essere comunque migliorato per far sì che la partecipazione delle imprese sia più ampia e che ci siano più studenti, insomma, a partecipare a questo progetto? Sì, noi avendo un tessuto imprenditoriale basato su piccole e medie imprese, è evidente che la piccola impresa può avere qualche ulteriore fatica nell'accompagnare questi ragazzi. Credo che le normative devono essere improntate sulla semplicità dei comportamenti da parte delle scuole, soprattutto in temi di sicurezza e temi di sicurezza sul luogo del lavoro e sul trasporto tra scuola e lavoro. Ma credo che con il ministro ci si stia parlando e dialogando anche in questi termini. E tra l'altro con il ministro, con la ministra dell'istruzione, proprio domani ci sarà un importante convegno anche per parlare del PON scuola. Sì, abbiamo voluto organizzare con la ministra domani questo importante appuntamento proprio per capire meglio denari dedicati ai PON, dove vanno allocati e come possono essere utilizzati dalle scuole e dalle imprese, e fare anche il punto sulla situazione di alternanza scuola-lavoro e anche sul tema degli ITS. Quindi diciamo che è una giornata proprio formativa e conoscitiva dei passi in avanti che stiamo facendo insieme al Ministero e al Governo. Per quanto riguarda i licei, com'è la situazione? Perché in realtà gli istituti professionali, dove il collegamento con le imprese è più forte, più strutturato da tempo, c'è una partecipazione diciamo maggiore, ma altrettanto non si può dire per i licei, dove l'alternanza è ferma al 20%. Sì, diciamo è un percorso leggermente diverso, anche perché la specificità degli studi dei licei deve avere una giusta collocazione all'interno di imprese, soprattutto che basano sulla cultura, sull'editoria, il proprio business, e quindi anche su questo punto di vista stiamo cercando di trovare un cammino per le persone che stanno frequentando i licei. Abbiamo già dei buoni riscontri. Avete anche dei buoni riscontri da parte degli insegnanti e delle scuole, oppure c'è una sorta di resistenza culturale? Non parlerei tanto di resistenza culturale, ma di resistenza al cambiamento. Io credo che tutti i cambiamenti debbano essere visti per il buono che c'è all'interno del cambiamento. In questo caso è l'accompagnare i ragazzi a un grado di occupabilità importante che fa sì che si possa riuscire a far diminuire la cifra ormai abnorme e fuori da ogni logica della disoccupazione giovanile. Ecco, quindi anche una misura per contrastare proprio la disoccupazione giovanile, non solo per orientare i giovani alle proprie scelte future. Si percepisce immediatamente che, conoscendo il giovane da 3 anni che ha frequentato l'azienda, è anche più semplice dare l'opportunità ai ragazzi che hanno frequentato l'azienda un possibile lavoro e un primo lavoro. Come dico sempre, entrare nel mondo del lavoro è un primo gradino per la propria ascesa sociale e il proprio cammino lavorativo. E di disoccupazione giovanile parla anche il presidente dell'INPS, Tito Boeri. Sentiamolo al microfono di Giorgio Stamatopoulos. Ci sono molti aspetti critici nel nostro mercato del lavoro. Il dato più grave è la disoccupazione giovanile, continua a essere davvero un livello intollerabile. E credo che tutte le attenzioni dovrebbero essere dedicate a questo problema, da parte di tutti, il sindacato in primo luogo, che chiaramente è impegnato nella festa dei lavoratori, dovrebbe dare particolare attenzione a questo aspetto. Abbiamo questa realtà di giovani, tra l'altro anche istruiti, faticano ad entrare nel nostro mercato del lavoro. Questo credo è il tema, è il grande tema del momento, anche perché è ciò che impedisce la crescita nel nostro paese. Altro scoglio da superare è quello del divario salariale di genere, cioè la differenza di retribuzione tra uomo e donna a parità di mansione ricoperta. In Europa si arriva fino al 30%, in Italia invece lo scarto salariale è uno dei più bassi, intorno all'8%, ma non è tutto oro quello che luccica. Al di là del dato lusinghiero, ci sono differenze di carriera, di opportunità, di accesso al mondo del lavoro e anche di pensione. Alessandra Schepisi ne ha parlato con Linda Laura Sabbadini, statistica sociale e editorialista della Stampa. Ascoltiamo. A livello europeo viene calcolata questa misura considerando la retribuzione media oraria di uomini e donne. Il problema è che però non è calcolata realmente a parità di mansioni che vengono svolte. Quindi in qualche modo quello che succede è che noi sembriamo avere un divario salariale più basso del resto d'Europa, ma questo semplicemente perché meno donne con di titolo di studio basso e che si inserirebbero in qualche modo in funzioni di lavoro manuale più basso, eccetera, entrano nel mercato del lavoro nel nostro paese e quindi, facendo le medie, le donne risultano avere un salario più alto degli uomini semplicemente perché in quelle posizioni non riescono proprio a entrare. Quindi in realtà le differenze sono altrove. Le differenze sono altrove. Allora, il problema vero è che noi abbiamo una differenza tra salario reale e salario di fatto. E soprattutto a livello di imprese quello che succede è che sia in termini di straordinari, sia in termini di premi, sia in termini anche di minore presenza delle donne ai vertici, le quali a loro volta vengono anche pagate di meno, tutto questo incide sul fatto che poi a parità nei fatti non ci si arriva mai. E anche a livello pensionistico è un divario che poi si ripercuote alla fine del percorso lavorativo, naturalmente. Purtroppo sì, anche perché le donne sono particolarmente concentrate nel lavoro part-time e questa cosa, il part-time ovviamente è sempre esistito, però quello che sta succedendo anche con questa crisi è che sta aumentando il part-time che le donne non vorrebbero fare, quindi il part-time involontario che rappresenta il 60% del totale. Allora, che cosa succede? Che se nel corso della vita le donne stanno più nel part-time e hanno quindi una maggiore probabilità anche di perdere il lavoro con il part-time, perché questo viene dai dati, questo fa sì che al momento della pensione avranno una pensione più bassa anche perché intermittente, ma anche perché vengono pagate di meno, fanno meno ore. Quanto influisce l'istruzione sulla carriera delle donne? L'istruzione è fondamentale per l'accesso nel mondo del lavoro, cioè se tu hai un titolo di studio molto basso, per una donna del sud è quasi impossibile entrare nel mondo del lavoro, mentre invece le laureate del sud e del nord stanno con tassi di occupazione più vicini, quindi importante per l'accesso. Poi, a parità di titolo di studio, quello che succede è che in realtà abbiamo un salario che è diverso per uomini e donne. Le donne hanno sempre una differenza verso il negativo. Cioè le donne si avvantaggiano di meno del diploma o della laurea rispetto agli uomini, insomma. Si avvantaggiano di meno, assolutamente. Allora, si avvantaggiano rispetto alle altre donne che hanno hanno più basso titolo di studio, ma non certo rispetto agli uomini. Gli effetti della crisi invece sul mercato del lavoro per quanto riguarda sempre le diseguaglianze tra uomo e donna? Allora, questa crisi ha provocato una diminuzione delle differenze di genere nel mercato del lavoro e questo potrebbe essere visto come un dato positivo. In realtà, purtroppo, però, questa è una riduzione del differenziale di genere al ribasso, perché in sostanza è avvenuta non tanto perché le donne hanno guadagnato, ma semplicemente perché hanno retto meglio, hanno perso meno. E quello che è successo è che gli uomini hanno perso molto. In più, le donne durante questa crisi hanno peggiorato la qualità del loro lavoro. È peggiorata la conciliazione dei tempi di vita, sono aumentate le interruzioni nel lavoro, è aumentato enormemente il part-time involontario, quello che donne non vorrebbero, che è arrivato più o meno al 60%, cioè il doppio del resto d'Europa per le donne. Sono aumentate le professioni manuali e non qualificate e sono diminuite quelle tecniche. Divario salariale, disoccupazione giovanile, contratti, tanti gli spunti sui quali coinvolgere le parti sociali, quindi imprese e sindacati. Partiamo da Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali. Lo ha intervistato Teresa Trillò. La lunga crisi economica ha modificato il mercato del lavoro, il potere di acquisto dei lavoratori è ampliato, il ricorso alla flessibilità. Il contratto a tempo indeterminato è superato? Ma il contratto a tempo indeterminato, così come è stato concepito dalla riforma del Job Act, non è assolutamente superato. Secondo me lo strumento è stato ammodernato e anche di tanto. Può corrispondere a quelle che sono le esigenze delle imprese e dei lavoratori. Naturalmente bisogna snellire la materia dei contratti, semplificare molto, diciamo, creare anche degli strumenti che agevolino il ricorso all'adozione di questa forma, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione del problema della disoccupazione giovanile. Ecco, il tasso di disoccupazione è all'11,5%, una priorità per far ripartire il lavoro e da dove prendere le risorse? Sicuramente la riduzione del cuneo fiscale va nella direzione giusta. Noi abbiamo un livello del costo del lavoro, a mio avviso, insostenibile, insopportabile per le imprese, che fa il paio con un clima che non è proprio il più favorevole possibile per sviluppare il nostro modello imprenditoriale. Per cui ritengo che si debba agire in questa direzione e le risorse debbano provenire essenzialmente dalla riduzione della spesa pubblica, dalla lotta all'evasione anche attraverso l'adozione di meccanismi di riscossione delle imposte che in pratica non facilitino i meccanismi di evasione e qualora non si dovesse riuscire in questo modo, bisogna procedere ad un riordino complessivo del carico fiscale attraverso anche lo spostamento su imposte diverse da quelle che colpiscono il reddito d'impresa e che vanno ad incidere sul costo del lavoro. Governo e sindacati hanno riaperto il tavolo permanente sulle pensioni. Cosa si aspetta Confindustria? Ma io mi aspetto che ci sia attenzione non solo verso le pensioni o gli interessi dei pensionati, che sono pure interessi legittimi, ma che si apra veramente invece un tavolo che abbia come oggetto la risoluzione del problema della disoccupazione giovanile. Io penso che ci vuole un'iniziativa di portata importante e a mio avviso un tavolo su questa tematica specifica non solo è auspicabile, ma a mio avviso è doveroso per dare una risposta ai problemi dei nostri giovani. Per quanto riguarda gli over 50 invece? Secondo me c'è un sentiero che è stato tracciato anche attraverso gli strumenti relativi all'anticipo pensionistico. Secondo me bisogna rendere effettivamente cantierabili, diciamo, quei meccanismi. E poi, a mio avviso, bisogna affrontare in un modo più operativo il problema delle politiche attive del lavoro, nel senso che oggi il mondo del lavoro sta cambiando notevolmente, bisogna dare una risposta a quelle che sono le esigenze di coloro che vengono espulsi dal meccanismo del lavoro e che faticano a trovare poi un nuovo posto di lavoro. Per cui, secondo noi, l'accordo che abbiamo siglato con i sindacati il 1° di settembre dello scorso anno va in questa direzione, in quanto individua nei piani operativi di ricollocazione uno strumento adeguato per poter far fronte a questa esigenza. Bisogna che il governo ci metta la sua parte per rendere effettivamente cantierabile, operativo ed esigibile quell'accordo. Per cui da questo punto di vista, secondo me, anche lì la roadmap c'è. Bisogna solamente insistere e rendere operative tutte queste idee. Divario salariale, disoccupazione giovanile, contratti, tanti gli spunti sui quali coinvolgere le parti sociali, quindi imprese e sindacati. Ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo da qui. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Speciale 1° maggio, come crisi e globalizzazione hanno cambiato il mondo del lavoro. Ultima parte del nostro speciale dedicato al 1° maggio, spazio ora ai sindacati, ai temi più caldi del mondo del lavoro. Teresa Trillò ha avvicinato Susanna Camusso, CGIL. Lavoro e festività, l'apertura pasquale dell'outlet di Serravalle Scrivia ha scatenato proteste e polemiche. La liberalizzazione degli orari dei negozi va rivista? Sì, non c'è dubbio, bisogna fare una legge, ci sono delle festività che vanno rispettate per tutte, bisogna innescare anche un elemento virtuoso nella contrattazione, nel senso che non può essere considerato lavoro ordinario, non si può considerare che ovunque è essenziale che si apra sempre e comunque tutte le domeniche. Alitalia, i dipendenti hanno voltato le spalle ai sindacati bocciando il preaccordo siglato con l'azienda sulla ricapitalizzazione, un no che fa esplodere la crisi del sindacato. Come pensate di riavvicinare i lavoratori e conquistare nuovi iscritti? No, mi pare che il problema sia esattamente opposto, è un no che ha bocciato il management aziendale che non è mai riuscito a attuare i suoi piani industriali. Mi pare un tema che invece propunga come si gestiscono delle grandi imprese e dei grandi servizi. Poi ovviamente il giudizio sul piano industriale, che peraltro non abbiamo mai avallato, è esattamente un giudizio che dice che se si vuole percorrere la strada della partecipazione dei lavoratori bisogna anche avere con loro degli argomenti convincenti. Si continua a trattarla come se fosse una questione di giudizio sul sindacato, ma lì c'è un giudizio sull'azienda. La lunga crisi economica ha modificato il mercato del lavoro, il potere di acquisto dei lavoratori e ampliato il ricorso alla flessibilità. Il contratto a tempo indeterminato è superato? Ma assolutamente no, si continua a confondere l'idea che ci sia flessibilità e processi di innovazione nel lavoro con il fatto che questo debba trasformarsi in precarietà. Si continua a ragionare del contratto a tempo indeterminato come punto di professionalizzazione e di qualità del lavoro, con invece il fatto che bisogna pensare che non c'è più il posto fisso. In realtà è un dibattito in cui le parole hanno cambiato il loro significato e non si ha invece l'idea di quanto è fondamentale per la qualità del lavoro che ci sia un tempo nel quale le imprese e i lavoratori possono formarsi e innovare. Il tasso di disoccupazione è all'11,5%, una priorità per far ripartire il lavoro e da dove prendere le risorse? Come abbiamo detto in tante occasioni, la priorità è un piano straordinario per l'occupazione giovanile, il che vuol dire fare investimenti concreti, e le risorse si prendono magari non buttandole via in bonus e decontribuzioni a pioggia che non cambiano la situazione, e comunque anche una riforma fiscale che faccia pagare chi ha di più. Quindi anche una patrimoniale, c'è anche un tema di progressività, c'è un tema di evasione, sono molti i temi. Ora spazio alla CISL con Anna Maria Furlan, sempre al microfono di Teresa Trillò. Lavoro e festività. L'apertura pasquale dell'outlet di Serravalle Scrivia ha scatenato proteste e polemiche. La liberalizzazione degli orari dei negozi va rivista? Allora, il giorno di Pasqua le persone hanno tutto il diritto di stare con la propria famiglia. Non parliamo di lavoratori che danno servizi essenziali, che lavorano nei trasporti, che lavorano nella malattia. La malattia purtroppo non va mai in festa. Parliamo di lavoratori che possono benissimo quel giorno non dare il servizio commerciale perché gli acquisti di un paio di scarpe, di una maglia, si possono fare anche in un'altra giornata. E quindi è giusto dare a loro il diritto di stare in quella giornata con le loro famiglie. All'Italia, i dipendenti hanno voltato le spalle ai sindacati bocciando il preaccordo siglato con l'azienda sulla ricapitalizzazione. È un no che fa esplodere un po' la crisi del sindacato. Come pensate di riavvicinare i lavoratori e conquistare nuovi iscritti? Noi abbiamo il dovere di stare di più in mezzo ai lavoratori, di dire le cose chiare e vere ai lavoratori e quindi di coinvolgerli nelle decisioni. Nel caso Alitalia purtroppo non c'è stato sufficiente tempo per fare una consultazione che desse ai lavoratori la possibilità fino in fondo di conoscere davvero le situazioni. La lunga crisi economica ha infatti modificato il mercato del lavoro, il potere di acquisto dei lavoratori e ha ampliato anche il ricorso alla flessibilità. Il contratto a tempo indeterminato è superato? Assolutamente no, è quello che dà più certezza alle persone, ma bisogna farlo costare meno e fare costare di più le tante forme di flessibilità oggi presenti sul mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è all'11,5%, una priorità per far ripartire il lavoro e da dove prendere le risorse? Innanzitutto con gli investimenti, investimenti pubblici e investimenti privati, sulle grandi e sulle medie infrastrutture, sul mettere il nostro territorio in sicurezza, su rendere vivibili e sicure le nostre scuole, le nostre strutture, ma anche tanto investimento sull'innovazione, sulla ricerca, sulla formazione. Chiudiamo con la UIL, Carmelo Barbagallo, sempre al microfono di Teresa Trillò. Lavoro e festività. L'apertura pasquale dell'outlet di Serravalle Scrivia ha scatenato proteste e polemiche. La liberalizzazione degli orari dei negozi va rivista? E va rivista certamente, anche perché le stesse imprese stanno capendo che si è spostato il consumo dal giorno feriale alla domenica e quindi non porta nuove risorse nelle aziende e devono pagare anche i suppletivi di straordinario per i festivi. All'Italia i dipendenti hanno voltato le spalle ai sindacati bocciando il preaccordo siglato con l'azienda sulla ricapitalizzazione. Un no che fa esplodere la crisi del sindacato. Come pensate di riavvicinare i lavoratori e conquistare nuovi iscritti? Noi non ci sentiamo sconfessati da nessuno perché avevamo pensato benissimo che era difficile quel tipo di trattativa che era tutta naturalmente a perdere. La lunga crisi economica ha modificato il mercato del lavoro, il potere di acquisto dei lavoratori e ampliato anche il ricorso alla flessibilità. Il contratto a tempo indeterminato è superato? Intanto l'ha superato il Jobs Act, ma non è questo il problema, perché il contratto a tempo indeterminato in momento di crisi è una chimera. Adesso non ridiamo più soldi ai lavoratori e ai pensionati, non offriamo l'occasione per maggiori consumi interni, non ci saranno prospettive di nuova occupazione per i giovani, al di là dei bonus e dei regali che si possono fare alle imprese. Il tasso di disoccupazione è all'11,5%, una priorità per far ripartire il lavoro e da dove prendere le risorse. Bisogna sconfiggere l'austerità che ha imperato in questi anni in Europa. Il problema è che ci sono dei progetti che bisogna far partire rapidamente, mettere in sicurezza il paese. E le risorse da dove vanno prese? Tentando di mettere queste risorse al di fuori dal patto di stabilità europeo, che è una vergogna internazionale che sta allontanando i popoli dall'Europa e sta creando le condizioni per avere muri e non ponti. E abbiamo sentito istituzioni e parti sociali, coinvolgiamo ora nella nostra ultima parte le principali forze politiche, le ricette per il mondo del lavoro del Movimento 5 Stelle, Claudio Cominardi al microfono di Elisabetta Fiorito. Noi innanzitutto mettiamo davanti a tutto la partecipazione, per cui il programma di governo l'abbiamo discusso in rete con i nostri iscritti e l'idea innanzitutto è quella di, per quanto riguarda i sindacati per esempio, il fatto che debbano ritornare alle loro funzioni principali, cioè a rappresentare i lavoratori, quindi nessuno li vuole cancellare, non è scritto da nessuna parte, contrariamente a quanto è stato detto. Ecco, l'incremento sul lavoro, cioè come si fa a incrementare oggi il lavoro che non si trova? Utilizzare più frequentemente per esempio i contratti di solidarietà, incentivare anche delle forme di part-time anche più duraturo, dare la possibilità a chi vuole avere un orario più flessibile, quindi non il lavoratore che diventa flessibile, ma è l'orario che deve essere rimodulato. Voce ora a Forza Italia con Renata Polverini, sempre al microfono di Elisabetta Fiorito. Onorevole Polverini, quali sono le ricette di Forza Italia e del centrodestra per incentivare il mondo del lavoro? Cosa non va secondo voi in questo momento? Non va che si sono utilizzate le regole del mercato del lavoro per creare nuovi posti di lavoro. In realtà servono investimenti anche pubblici, una politica di rilancio anche sul piano industriale in un paese che non può prescindere dal settore manifatturiero. Quindi per voi gli incentivi che sono stati dati sul Jobs Act sono uno sbaglio? Assolutamente buttati via. 10 miliardi utilizzati per gli 80 euro strutturali all'anno che potevano essere invece appunto investiti nel nostro sistema industriale, ma soprattutto il bonus che di fatto ha soltanto trasformato dei posti di lavoro, 20 miliardi che sommati a quelli degli 80 euro potevano essere veramente un bel tesoretto, come dice Renzi, per rilanciare l'economia e lo sviluppo del paese. Che cosa ne pensa dell'abolizione dei voucher? Anche quello è stato un errore? Un errore gravissimo, anche perché in Commissione Lavoro avevamo trovato comunque un punto di convergenza per evitare che le famiglie per prime si trovassero senza uno strumento che per loro si era dimostrato assolutamente fondamentale. Chiudiamo con il PD, Cesare Damiano, sempre Elisabetta Fiorito. Il Jobs Act ha due errori. Uno è sicuramente quello degli sgravi. Basta con gli sgravi a tempo, perché producono le fiammate iniziali e le bolle occupazionali. Cessati gli sgravi, cessa l'occupazione a tempo indeterminato e si torna alla precarietà. Quindi gli sgravi devono essere strutturali, permanenti. In secondo luogo bisogna correggerlo sul tema dei licenziamenti. Non si può accettare un licenziamento economico non motivato da una crisi vera di un'azienda. In quel caso il lavoratore deve tornare nel posto di lavoro. Gli imprenditori chiedono un taglio del cuneo fiscale. Si tratta di limare il cuneo fiscale, ma non con incentivi a termine, a 2 anni, a 3 anni, ma incentivi permanenti, strutturali, anche se più bassi. Tanti i temi per il mondo del lavoro, abbiamo cercato di fare domande, dare delle risposte, abbiamo visto tante le priorità questo 1° maggio. Ringrazio in regia Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. Lo speciale 1° maggio termina qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.